quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti, e non ti basta ormai più niente. In fondo pensi ci sarà un motivo, e cerchi a tutti i costi una ragione, eppure non c'è mai una ragione, perché un amore debba finire. E vorresti cambiare faccia, e vorresti cambiare nome, e vorresti cambiare aria, e vorresti cambiare vita, e vorresti cambiare il mondo. Sai perfettamente che non ti servirebbe a niente, perché c'è lei, perché c'è lei, perché c'è lei, perché c'è lei, perché c'è lei nelle tue ossa, perché c'è lei nella tua mente, perché c'è lei nella tua vita, e non potresti più mandarla via, nemmeno se cambiassi faccia, nemmeno se cambiassi nome, nemmeno se cambiassi. Potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata, magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso. Perché quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente.